Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, come sempre, alcune informazioni di servizio. La prima è la nostra mail sottotiro@radio24.it. La seconda riguarda il mio blog, ormai lo conoscete, Guardie o Ladri. Scrivo lì ormai da quasi 4 anni solo ed esclusivamente di criminalità organizzata. Come introduciamo il tema di oggi? Beh, state un po' a sentire. Mangia. Mangia, piccolo Michel. Mangia. Se tu non mangi, tu non puoi morire. Bisogna mangiare. Bisogna mangiare. Io pensavo che Filippo sarebbe stato il primo. Il giudice. Sono pazzi. Benvenuto a Peppe Ruggero, buongiorno. Buongiorno a tutti. Peppe, tu hai riconosciuto questa musica e questo brano? Sinceramente no. Allora te lo dico io. Questo è un frame della Grande Abbuffata, un film del 1973 diretto da Marco Ferreri. Si sentiva anche in sottofondo distinta la voce di Marcello Mastroianni, che era uno degli interpreti. E perché parliamo Grande Abbuffata? Perché Peppe Ruggero, che ci ha dato prima il buongiorno, è l'autore di uno splendido libro, si chiama L'ultima cena, a tavola con i boss. Allora, la prefazione di Don Luigi Ciotti, l'introduzione è di un giornalista che io stimo da morire, Roberto Morrione, ex direttore di Rai News 24. Le edizioni sono quelle di Verde Nero. Allora, Peppe, tu sei certamente non nuovo a queste splendide iniziative. Ricordiamo il tuo documentario Beautiful Country, che ha avuto un successo incredibile proprio sulla denuncia del traffico dello smaltimento dei rifiuti in Campania. Allora, perché hai deciso di scrivere un libro che si chiama L'ultima cena a tavola con i boss? L'idea mi è venuta proprio girando Beautiful Country. Diciamo che con questo libro continuo l'avventura che ho fatto vedere attraverso le immagini di Beautiful Country. Lì si parla di una terra avvelenata, di una terra inquinata, di una terra violentata, e dove inevitabilmente, girando, incontrando i contadini, incontrando le persone, mi veniva subito in mente, mi colpiva proprio che quello che andava ad essere coinvolto, ma soprattutto compromesso, erano proprio la terra, i prodotti che venivano coltivati su quelle terre. Ed è per questo che tu, come dire, giochi su tante allegorie, una più bella dell'altra. L'ultima cena, ovviamente, che ricorda un po' l'ultimo pasto consumato comunque da nostro Signore Gesù Cristo con i suoi discepoli, che può essere, come dire, allegorico, perché effettivamente in terre avvelenate, prodotti avvelenati, l'ultima cena sicuramente può esserci. Ma poi giochi anche a tavola con i boss, perché ovviamente questi frutti avvelenati, correggimi se sbaglio, ovviamente sono proprio il frutto delle loro attività illegali ed illecite. L'idea è venuta che in un lavoro di ricerca, di inchiesta, tutto ciò che era intorno al cibo c'era la presenza della criminalità organizzata, sotto due aspetti: quello che dici tu, nel senso di inquinamento volontario e volontario della criminalità organizzata, e quindi inevitabilmente i prodotti che arrivano sulla nostra tavola, ma anche quella parte che non è inquinata, che è di qualità, ma che comunque inconsapevolmente i consumatori, nel momento in cui vanno a comprare, nel gesto che è quello là più tipico quotidiano di andare a fare la spesa, involontariamente comprano e ingrassano le portafogli dei boss. Benissimo. L'ultima cena anche in questo senso, certo. E l'idea mi è venuta spesso e soprattutto nel momento in cui c'è stato l'arresto di Setola, il boss dei Casavesi, e che aveva un vizio, quello di mangiare la carne anche durante la sua latitanza, e proprio questa voglia di voler mangiare la carne ha portato la magistratura, la forza dell'ordine a catturarlo, ed era quasi l'ultima cena che lui ha potuto consumare prima di essere arrestato. L'ultima cena e anche per questo, infatti un capitolo, io dico i boss presi per la gola, proprio perché per il loro vizio, per la loro voglia di assaporare anche nella latinanza alcuni piatti tipici, li hanno portati ad essere arrestati. Certamente. Allora, io leggo l'indice di questo libro. Peppe, dimmi la cosa che più ti ha colpito, oltre a quella che hai appena raccontato, in questo elenco che io ti vado a raccontare, che ovviamente tu conosci meglio di me. Caffè, panini, gelati, acqua minerale, pane, burro e la fragranza di reato. Questo è il capitolo e per cominciare. Poi le linguine e datteri proibiti, i caparozzolanti delle vongole tossiche, spigola, l'acqua pazza, la banda del racket del pesce, la fettina di Sandokan, bufala, denominazione di origine camorristica, frutta e ortaggi al percolato, il sistema agricoltura made in Camorra e quel clan ministro dell'agricoltura in pectore. Allora, che cosa ti ha colpito? Guarda, a me mi ha colpito nel mio lavoro di inchiesta soprattutto spigola all'acqua pazza, perché mi è sembrato quasi una sceneggiatura di un film nel momento in cui raccontavo e leggevo le carte delle inchieste. Eppure invece in Campania la criminalità organizzata, i clan sono riusciti a vendere anche l'invendibile, qual è l'acqua di mare. Certo, e questo certo. Potrebbe essere una cosa, sì. Uno dice banale, semplice, vabbè, che c'è di strano? No, la cosa particolare è che nelle esperienze, nelle inchieste, l'acqua di mare in zone altamente proibite, quindi stiamo parlando laddove c'è la possibilità di non balneabilità, quindi acqua contaminata, inquinate, venivano vendute dai clan alle pescherie per fare la famosa rinfrescata, che a Napoli è l'acqua di mare utilizzata nelle bacinelle che vengono esposte fuori dalle pescherie per rendere il pesce sempre fresco. Certo, allora sentiamo a questo punto questo ultimo inserto audio. Adolfo, c'è da guadagnare molti soldi con questo vino. Tanti cartoni, si vende facile, piace sia il bianco che il rosso. Vai a nome mio, Salvatore, ha detto Baduccio che gli serve un po' di capretto per 6-7 persone. Franchino mi deve dare il consolo che mi regala ogni anno con 3 astici dentro. Se ne mette uno in più, non sbaglia. Allora, quello che avete sentito non sono ordinazioni, ma sono delle frasi che stanno ad indicare cose illegali, illeciti, ordini di acquisto di droga o di quant'altro. Ed è il capitolo questo che il nostro Peppe Ruggero ha chiamato il cibo in codice. Allora io lo ringrazio ovviamente, così come ringrazio in regia Roberto Scaltritti e in studio Laura Faggin, e invito tutti a comprare il libro L'ultima cena a tavola con i boss di Peppe Ruggero. Da Roberto Galullo una buona giornata.